9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 22 dicembre da Oscar Giannino, l'avete visto e l'avete anzi più che altro sentito oggi Santa Francesca Gabrini. Torniamo alla nostra programmazione ordinaria dopo i due giorni che abbiamo alle spalle. Sono stati due giorni speciali di programmazione su Radio 24, ci siamo dedicati alla crisi incrociando un po' i conduttori. La mattina cominciare dalla segna stampa con Alessandro Milano, ho fatto un po' di irruzioni e raid io nelle trasmissioni degli altri, gli altri nelle trasmissioni mie, e il tentativo era quello di prepararci a questa asta straordinaria che ieri si è tenuta per la prima volta con le nuove regole da parte della BCE, aste di liquidità triennali non si erano mai viste, con un interesse all'1% e con un ampliamento dei collaterali per tutte le banche europee portabili alla banca centrale, ed è il primo tentativo di politiche non ortodosse, per così dire, per evitare che il sistema bancario europeo finisca in torsione, mentre la rapidità del canale bancario, economia reale, contribuisce al deterioramento molto rapido e intenso dell'economia reale. Ieri l'Istat ci ha avvisato, il terzo trimestre è con un segno meno dell'economia italiana, i due precedenti trimestri sono stati corretti a ribasso, tutte le attese sono per un'ulteriore diminuzione col segno meno anche nel quarto, quindi dopo due trimestri saremo in recessione, e questo è l'effetto della rapidità del contagio che dal sistema bancario, corto di liquidità perché incorpora il premio rischio paese, impossibilitato a rivolgersi ai mercati anche per l'obbligazionario commerciale all'ingrosso, trasferisce sui clienti, non può, i clienti sono già in incagli che diventano sofferenze, e a questo punto le misure della BCE con l'asta che si è tenuta ieri sono la prima risposta, una risposta che ha visto 523 banche partecipare, 489 miliardi di liquidità raccolta, più di 200 a questo punto è quella che può andare agli impieghi, e il mercato si domanda, secondo me fa bene a domandarsi, se 200 miliardi andranno ai clienti oppure saranno impiegati in quello che si chiama il carry trade, cioè nel fatto di dovendo pagare un interesse così basso che si abbasserà ulteriormente prima dell'asta di fine febbraio, perché scenderà di almeno 25 punti base ancora l'interesse praticato dalla BCE, non sia più conveniente reimpiegare questi titoli, questi denari nell'acquistare titoli di stati che rendono 5, 6, 7%. Questo potrà far piacere agli stati, ma se le banche fanno così piangeranno i clienti, cioè le famiglie e le imprese, e quindi ecco perché i mercati rimangono freddi, i mercati continuano a scommettere sul fatto che non vada la faccenda, anche perché la quantità di titoli pubblici, di titoli bancari e di titoli corporate che scadono l'anno prossimo nei paesi avanzati supera di gran lunga i 1.500 miliardi, e quindi c'è poco da ridere complessivamente. Ora, prima di andare ai nostri ospiti di giornata, abbiamo tre focus oggi, abbiamo un punto di riflessione con la politica, perdonate questa roba che ho fatto con il naso, indegna, mi vergogno e mi chiedo scusa a tutti voi, abbiamo un primo punto di riflessione sulla politica perché sarà con noi Franco Frattini, cominciamo con lui tra un minuto e mezzo, l'ex ministro degli esteri del governo Berlusconi, poi facciamo un secondo approfondimento su come mai la Spagna continui ad andare meglio di noi sul differenziale al rischio, c'è un punto interrogativo, non è che per caso la manovra del governo Rajoy che ha vinto le elezioni va meglio di quella del governo Monti nel giudizio dei mercati, perché è più fatta di tagli di spese che di aumenti delle tasse, e poi c'è un terzo punto di riflessione su una delle misure più apparentemente applaudite della manovra del governo Monti, che oggi è alla fiducia del Senato, sempre che il Senato eviti di avere nuove sospensioni come quella coi fischi che avete sentito da parte dei senatori leghisti, ma un punto discutibile è quello dell'aumento delle tasse di stazionamento per le barche, si dice che i ricconi italiani devono essere messi nel luogo. Bene, sta di fatto che il settore della cantieristica italiana da diporto era un settore di eccellenza della nostra economia, dico era perché si difende a malapena dopo anni di brutta recessione e di consolidamento invece dei nostri concorrenti, che ne approfittano magari per comprare qualcosa d'italiano interessante messo all'angolo e non renderlo più italiano. E con questa bella tassa di stazionamento noi che cosa facciamo? Regaliamo posti barca ai croati e ad Ajaccio e alla Corsica, in realtà, più che riequilibrare il prelievo nel nostro paese. Quindi sentiremo il presidente dell'UCINA, l'Unione Nazionale Cantiere e Industrie Nautiche. Io, avrete capito che sono per una tesi critica, non per la tesi della demagogia fiscale. Ancora un rapidissimo volucello su la valutazione della stampa internazionale all'indomani di questa asta straordinaria di liquidità tenuta dalla BCE. Naturalmente c'è ci sono ancora non vaste, ecco, ma tutti riportano il dato italiano come il dato italiano sul terzo trimestre col meno 0,2% di PIL, e alcuni iniziano a interrogarsi su se non sia questo il segno ufficiale dell'inizio della glaciazione nell'euroarea. La cosa che mi ha colpito di più oggi è quella del Financial Times Deutschland, perché la Germania continua ad aumentare il suo attivo commerciale nei confronti del resto dei partners europei. Dovrebbe avvenire esattamente il contrario se fossimo in una cornice di bilanciamento delle politiche di crescita interne all'euroarea. Più si accresce la divergenza della bilancia commerciale e quindi anche degli attivi di parte corrente alla bilancia dei pagamenti interna all'euroarea tra la Germania, che attualmente ha il record mondiale, ha superato anche la Cina negli ultimi tre mesi come attivo di parte corrente, 6 punti di PIL, più si accentua questa forbice tra la Germania e il resto dell'euroarea, che naturalmente non può tenere il ritmo A dell'attivo commerciale, B vede ulteriormente deteriorata la sua produttività rispetto a quelle tedesca, ci vede deflussi di capitale per effetto della crisi dei titoli sovrani, quindi queste tre voci rendono negativa la bilancia dei pagamenti. Ecco, più si apre questa forbice, più è praticamente impossibile immaginare un riequilibrio di un'area monetaria con mercati di beni e servizi separati. Ebbene, Financial Times Deutschland ci dice che da tre mesi a questa parte l'attivo commerciale tedesco nei confronti di ben 20 dei 26 paesi che hanno sottoscritto la accordo dell'8 dicembre migliora a vantaggio della Germania. Persino la Svezia, che ha un attivo commerciale complessivo, ha un deficit commerciale nei suoi rapporti bilaterali con la Germania. È un cattivo segnale dal mio punto di vista. Francia, in Francia c'è una batteria di articoli un po' su tutti i giornali, da Figaro e Seco, che fanno stato del fatto che per la Francia sarà impossibile tornare, secondo il calendario degli accordi presi con la Commissione Europea, al deficit del 3% entro due anni, perché questo implicherebbe manovre di correzioni già prima delle elezioni francesi, e questo non è immaginabile che Sarkozy lo faccia. Quindi ci sono ha molto eco la posizione di Jean-Pierre Jouyet, che è il presidente della Consob francese, l'equivalente della Consob francese, che ieri in una intervista esplicita alla Frankfurter Allgemeine ha dichiarato: non esiste, noi questo obiettivo non siamo in grado di raggiungerlo. E naturalmente si sprecano i commenti preoccupati, dei quali segnalo solo per esempio uno sempre sulla faccia di Mathieu Plaine, che dice: la Francia si prende così la responsabilità di essere il primo paese che mina già l'accordo dell'8 dicembre, e Gilles Moët di Deutsche Bank ha richiamato che è ancora peggio se si immagina che poi il candidato dei socialisti alle elezioni Hollande ha detto che in caso di sua vittoria lui addirittura il compromesso dell'8 dicembre non lo sottoscrive. Infine, due altri spottini. Kenneth Rogoff sul Financial Times è molto pessimistico sulla soluzione del problema europea, e la sua unica soluzione ottimistica in questo articolo che potete trovare su Financial Times è quello di una espansione e di una interpretazione espansiva della carta della Banca Centrale Europea, cioè sarebbe nelle mani di Draghi. In altre parole, sperimentato che può essere che entro tre mesi capiamo che questo sistema di alimentazione bancaria straordinaria non riesce anche a fronteggiare le emissioni di sovrane, solo se Mario Draghi, al di là di quello che la politica non è in grado di dargli, interpreta estensivamente, con l'accordo però dei tedeschi e non con il contrasto dei tedeschi, tedeschi all'interno del board, forse in quel caso l'euroarea può arrivare a un secondo trimestre meno potenzialmente vicino al break up di quanto non inizi il primo. E anche Olivier Blanchard, che non è tradizionalmente un euro pessimista, ma è che nel frattempo è chief economist del Fondo Monetario Internazionale, e anche Olivier Blanchard è molto critico e molto pessimista, in un articolo che trovate sempre riportato sul Financial Times. Quindi fine della nostra rassegna, non voglio fare il pessimista a oltranza, ora vediamo un secondo se la politica italiana, che in questi giorni è stata presa dall'accendersi immediato delle tensioni sulla riforma del mercato del lavoro che ci aspetta a gennaio e dalla retromarcia che ieri ha fatto il ministro Fornero, ieri sera Porta a Porta è stato clamoroso, ha detto che è stata un'ingenua a rilasciare questa intervista, che lei non ci pensava minimamente a dire che bisogna superare l'articolo 18, che assolutamente bisogna sentire le parti sociali eccetera eccetera. Detto questo, se quindi si torna con una marcia indietro sul mercato del lavoro, la mia previsione è che delle due proposte sul campo, quella Echino Flex Security, quella Nerozzi, molto probabilmente si comincia dalla Nerozzi e si andrà in peggio. Continuo a interrogarmi sul fatto che non esiste a oggi una proposta liberale. E lo dico senza critiche verso Maurizio Sacconi, ma sta di fatto che oramai negli ultimi anni si è accettato che le due proposte di riforma sul mercato del lavoro di riferimento da cui cominciare siano tutte interne all'area PD. Una che Ichino, l'area riformista, l'altra più vicina alla parte, diciamo, riformista maggioritaria della CGIL, e poi terza posizione quella di chi non vuole né l'una né l'altra. Faccio notare che tutte accomunano l'idea che ci sia un contratto unico a tempo indeterminato, che a me sembra fuori dal mondo, vado fuori controcorrente. Non esiste un paese avanzato in cui il modello di contratto per tutti è quello a tempo indeterminato, tantomeno può esistere in un paese in cui c'è tanta vasta di piccola impresa e così tanti autonomi professionisti che danno lavoro a dipendenti. Non esiste questa roba qua, è pura demagogia, e su questo io non sono d'accordo neanche con Pietro Ichino. Bisogna contemperare tutele crescenti a chi non ce l'ha, questo è vero, ma abbandonare quest'idea del tutto socialdemocratica e figlia di un modello che non ha, ripeto, radici in nessun altro paese avanzato, in cui diamo a tutti il contratto a tempo indeterminato, potrà non piacervi, potrò sembrarvi un matto, ma invece sono sicuro del mio, ed è colpa del mondo liberale che in questi anni ha, perdonatemi, governato ma non avanzato proposte, dicendo che si andava solo all'estensione in deroga della cassa ordinaria e straordinaria, che è stata efficace, ottima. Però a oggi scopriamo che non c'è una sola proposta per quelli che la pensano come me e che sono in maggioranza nelle imprese grandi, piccole e medie italiane, perché non c'è sul tavolo una proposta liberale ispirata a quello che vi ho appena detto. E questa è l'ennesima dimostrazione di come secondo me bisognerebbe fare un po' di colpe sul passato e ammettere delle responsabilità, perché altrimenti diventeremo un paese che a parole farà più flessibilità, di fatto accrescerà le rigidità, il rischio è molto forte. Allora, da questo partiamo con un'intervista a Franco Frattini, deputato oggi del PDL, ma lo sapete benissimo, l'abbiamo tante volte ospitato come ministro degli esteri del governo Berlusconi. Ringrazio e saluto onorevole Frattini, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno, dottor Giardino. Partiamo da un primo bilancio del sostegno a questo governo a manovra oramai approvata. Qual è la sua impressione? Che l'ala, io vedo che c'è un'ala sia nel PD che nel PDL di più convinti nel sostegno di questo passaggio emergenziale. Sì. Si è rafforzata, secondo lei, a quell'ala lei appartiene, non ne ha fatto mai mistero. Si è rafforzata questa vostra possibilità di sostegno, secondo lei, o le polemiche che sono scoppiate vi hanno complicato un po' la vita? Guardi, io resto pienamente convinto del sostegno al governo Monti e dell'importanza che questa fase, che è sicuramente una fase di emergenza per il Paese, prosegua con un sostegno leale, senza nascondersi e senza tornare indietro. È evidente che i risultati che saranno conseguiti dal governo Monti, che io mi auguro siano tutti quelli programmati, saranno, io spero, un argomento per rafforzare ulteriormente anche nella mente di chi ancora non è convinto e che ha accettato, per una logica di lealtà politica e di partito, di dare un sostegno pur non essendo pienamente convinto. E faccio proprio un esempio, riprendendo quello che lei stava dicendo sulla riforma del mercato del lavoro. Uno dei punti qualificanti della famosa lettera che le istituzioni europee mandarono all'allora governo Berlusconi, un punto qualificante era proprio la indispensabilità ed urgenza di una riforma del mercato del lavoro nel senso della flessibilità. E tutti ricordiamo che il governo Monti si è insediato assumendo l'impegno comunque di realizzare quegli impegni e poi evidentemente di fare altre cose. Allora io dico subito che, concordando in pieno con quello che lei ha detto, se si dovesse abbandonare l'idea di una riforma seria e strutturale nel senso della flessibilità del mercato del lavoro, beh, certo, verrebbe meno un punto importante, che è uno dei punti su cui noi crediamo che il governo Monti possa raggiungere un risultato. Io credo che non si debba partire certo dalla proposta Nerozzi, ma che si debba partire, semmai, essendo purtroppo sul tappeto solo quella del senatore Ichino, ma andando più avanti, non retrocedendo rispetto a quella proposta, perché io credo che sia uno dei punti su cui la riforma strutturale del lavoro che è stata fatta ad esempio in Germania alcuni anni fa sta oggi portando alle conseguenze virtuose che lei ha appena descritto sugli aumenti della produttività e sulla importanza che questo ha portato ovviamente all'economia tedesca. Quindi questo è un esempio. Insomma, la sintesi è: io resto convinto del pieno sostegno al governo Monti. Queste come dire, marce indietro che abbiamo visto in queste ore sulla riforma non solo dell'articolo 18 ma del mercato del lavoro devono essere riprese in mano, io credo, dal governo e probabilmente dal Presidente del Consiglio per confermare che questa del mercato del lavoro resta una parte qualificante dell'impegno del governo. Senta, le faccio solo una domanda, perché poi mi interessa di più la sua opinione sul concerto europeo e quello che succede dopo l'8 dicembre, secondo lei. Ma le faccio una domanda relativa al rapporto invece con la Lega, perché è chiaro che i senatori della Lega, i parlamentari della Lega che fischiano, fanno, insomma, si danno a delle manifestazioni che ci sono sempre state nella storia della Lega, sono venute meno quando la Lega condivideva la responsabilità di governo insieme al PDL, ma adesso tornano in Parlamento. E dall'altra parte si legge sui giornali: la Lega è decisiva per alcuni voti su deputati, intercettazioni per Romano, Cosentino e così via. Come la vede lei il rapporto PDL rispetto al futuro del PDL, un futuro in cui Berlusconi ha confermato: io non mi ripresento, rimarrò ad avere un ruolo ma non mi ripresento. Come vede la possibilità per questo PDL, che ha in mente lei, più responsabile nei confronti del passaggio attuale e non che va verso la demagogia, nei confronti di una Lega che ha invece una strategia un po' diversa e che rischia di essere decisivo in alcuni passaggi delicati per il PDL? È assolutamente vero che la Lega rischia di essere decisiva in alcuni passaggi delicati, ma noi credo dobbiamo guardare come PDL in avanti, dobbiamo avere una visione per il futuro e credo che in una contingenza che non sarà breve, sarà una situazione grave e delicata in Europa, ma ovviamente anche in Italia, per molto tempo. Il richiamo alla responsabilità deve essere permanente e deve valere anche per il futuro. Quindi io mi auguro che la Lega rientri dopo questa fase in cui ovviamente sta cercando di catturare, come fa a sinistra l'Italia dei Valori, il consenso degli scontenti, rientri nella sua consapevolezza che è stata forza di governo, che può tornare con noi ad essere forza di governo e che certe manifestazioni mal si conciliano con una serietà di forza di governo. D'altronde governiamo le regioni, governiamo province, comuni insieme alla Lega e queste alleanze io credo vadano confermate. Quindi si tratta solo di uscire da una fase di demagogia parlamentare in cui si pensa che questo attiri il consenso della gente. È vero, ci sono molti scontenti, ma io credo che poi alla distanza la grande maggioranza degli italiani voglia rassicurazione, voglia sicurezza in un momento così, voglia protezione rispetto al futuro dei loro figli e quindi l'idea di uno stato di agitazione permanente non è certo quello che alla lunga fa prendere voti, quindi credo che sia meglio ritornare ad un serio dialogo come il presidente Berlusconi ha cercato di fare anche negli ultimi giorni, e questo sarà l'impegno anche nostro, con dei limiti ovviamente, perché quando si sentono insulti forti e il presidente Schifani è dovuto intervenire ieri, si travalicano dei limiti, come dire, normali di una forza politica che noi consideriamo e abbiamo considerato un alleato serio durante l'esperienza di governo. Onorevole Frattini, lei è tra quelli, io sono un po' critico nei confronti di chi usa questi toni, ma posso capire che a chi gli si presenta il conto di una nuova recessione che si apre ufficialmente in Italia, capisco che dica: ma questi tedeschi proprio non ragionano. Ma lei, negli anni che ha alle spalle, cui ha visto consolidarsi questo corso e questa interpretazione tedesca anche della eurocrisi, questo invito ai mercati a farsi giudici, visto che il giudizio discrezionale degli organi politici europei non aveva funzionato in 10 anni, a iniziare proprio da quando i tedeschi furono loro a infrangere la soglia del 3%, il tetto di 3% di deficit. Lei pensa che abbia ragione chi spinge con critiche dure la Germania a cambiare un po' idea rispetto al loro compromesso, o invece è di quelli che dice: guardate che però c'è più saggezza in questa sferza che ci obbliga a correre visto il tempo che abbiamo perso? Io penso che si debbano un po' coniugare l'una e l'altra posizione. Io non sono molto tenero rispetto a un'interpretazione tedesca della gestione della crisi, a cominciare dal ritardo molto grave e molto colpevole alle primissime battute di questa crisi sui debiti sovrani, quando le riluttanze tedesche impedirono di agire subito per salvare la Grecia, e poi, come a tutti noto, il prezzo che abbiamo dovuto pagare è stato estremamente più alto e il contagio è iniziato. Quindi tutto inizia da lì, da una visione che io ho sempre francamente criticato, e soprattutto dal sostegno colpevole che apparentemente la Francia dava alla posizione tedesca, salvo poi a scoprirsi che i due paesi non concordavano affatto sulle linee di fondo. Quindi si sono mescolati due fattori negativi. Il primo, un ritardo colpevole, una riluttanza per ragioni comprensibili ed evidenti ma non condivisibili tedesche di non far pagare ai cittadini e ai contribuenti tedeschi il prezzo della crisi di un altro paese come la Grecia. Si è combinata con questo cosiddetto asse franco-tedesco, che è stato negativo in quanto immagine e ulteriormente negativo perché tra i due paesi non c'era nemmeno concordia, ma c'era addirittura divisione netta. Quindi io penso che queste due posizioni siano state all'origine, come dire, di una serie di problemi che ora il vertice dell'8 e 9 dicembre, il Consiglio europeo, ha cominciato ad affrontare, ma credo non abbia risolto in modo decisivo, perché i nodi che rimangono sul tappeto, magari ne accenneremo tra un attimo, sono molto seri, e un negoziato intergovernativo che sta partendo in queste ore e che si dovrà concludere probabilmente entro la fine di marzo, non sappiamo se riuscirà a risolverli completamente. La sua opinione è che concretamente l'Italia al tavolo tecnico, ne abbiamo parlato ieri perché cominciava proprio ieri, ho fatto bene a richiamare questa cosa, e c'è un tavolo a cui la Gran Bretagna, seppur solo da osservatore, comunque resta seduta, cosa che a me fa piacere, perché c'è la possibilità che la rottura rispetto allo spirito comunitario invece che intragovernativo si sani, si torni a 27. Ma detto questo, secondo lei tecnicamente che cosa l'Italia a quel tavolo può portare? L'Italia può portare, a mio avviso, due cose. La prima è quella di tenere alta la bandiera del metodo comunitario, cioè dire se anche è vero che quell'accordo la Gran Bretagna probabilmente o quasi certamente non lo firmerà, il coinvolgimento nel sistema negoziale deve essere pieno e deve essere completo, anche perché io credo la Gran Bretagna può non avere interesse a firmare accordi in questo settore, ma ha un enorme interesse ad avvalersi di grandi benefici che il sistema comunitario ha dato e sta dando, a cominciare dal mercato interno, dalla strategia comune di sicurezza e difesa. Quindi non è certo interesse britannico quello di sganciarsi dal sistema comunitario e dal sistema comunitario a 27. La seconda cosa che l'Italia può dare è, come dire, quella visione di più forte impegno politico della BCE. Lei ha lungamente descritto l'operazione di asta che si è compiuta e che ha avuto un notevole successo, e se vogliamo quella è uno degli esempi più importanti e più recenti di una interpretazione che non è conforme probabilmente alla lettera dei trattati, ma è quell'evoluzione politica che tutto il mondo chiede alla Banca Centrale Europea. Ecco, adeguare questa interpretazione evolutiva, diciamo così, ad una nuova normazione che consenta espressamente alla Banca Centrale Europea di andare più avanti, come fa un po' la Fed americana, questo è un contributo che l'Italia certamente può dare, perché qui in Italia c'è una larghissima condivisione verso questa idea. Auguriamocelo, e ora vediamo quale sarà l'evoluzione al tavolo tecnico. In ogni caso non bisogna attendersi che i mercati la smettano di prenderci un po' a schiaffi sullo spread. Allora ringraziamo l'onorevole Fartino, andiamo in pubblicità. Eccoci tornati in studio, secondo focus di riflessione dopo la parte politica. Oggi abbiamo sentito Frattini, sentiremo alternandoci naturalmente poi parti dell'altri pezzi di maggioranza, quindi anche il PD, non vi preoccupate, subito qualcuno mi ha detto ma non c'è uno del PD, no, vi dimenticate che oggi PD e PDL fanno parte della stessa maggioranza, quindi possiamo un giorno sentirne un pezzo e un giorno sentirne un'altra. Un flash invece, alcuni ascoltatori dicono: ma come, critichi la proposta Echino? Sì, io critico anche la proposta Echino, mica è la proposta Echino il Vangelo, signori. Il fatto che sia diventata il Vangelo, e con tutto che è ovvio che preferisco la proposta Echino a quella Nerozzi e a chi è oltre anche la Nerozzi, dice dell'inanità del mondo liberale, perdonatemi, perché questo è il punto. Non si tratta di negare il passo avanti che la proposta Echino rappresenta, perché introduce quello che si chiama several cons, un costo noto ex ante al posto della tutela giudiziale estesa anche ai licenziamenti per ragionamento economico. Quelli discriminatori restano vietati per tutti, è ovvio, ma invece commisura in un mese per ogni anno di anzianità la indennità che l'impresa deve mettere in conto se vuole procedere a licenziamenti economici, ai quali poi si somma la riforma degli ammortizzatori attuali, perché si sostituisce il sistema attuale con 3 anni di contributi a decrescere, 90, 80, 70% rispetto all'ultimo stipendio, alzando la compartecipazione di finanziamento dell'impresa. Quindi ha questi due vantaggi, questo non c'è dubbio, ma io mi permetto di criticare comunque l'idea che ci sia un contratto a tempo indeterminato per tutti. Questo io mi permetto di criticare, non esiste, è una risposta che la politica dà perché vuole portarsi a casa tutti coloro che dicono basta precariato e che scambia per precariato il contratto a tempo determinato. Il contratto a tempo determinato in un mercato del lavoro e con un sistema contributivo, con una riforma delle pensioni che tutti insieme, e degli ammortizzatori che tutti insieme evitino di far pagare a coloro che hanno il tempo determinato, ai giovani, alle donne, giovani e donne del sud, il fatto che ci sono tutele troppo rigide date a tutti gli altri, quello è un mercato in cui le differenze diminuiscono e il contratto a tempo determinato diventa la fisiologica espressione di questo tipo di manodopera. E questa roba ci sarà sempre in un paese, a maggior ragione se è come l'Italia. Questo è per me quello che devono tentare di affermare anche i liberali. Non ho intenzione di convincere nessuno, e infatti questa è più che altro una critica al mondo liberale che ha governato per tanti anni. Ora andiamo invece alla seconda domanda: come mai in queste settimane continuano a essere ancora più accentuate la differenza del premio al rischio dei bonus spagnoli, dei titoli di debito pubblico spagnolo rispetto a quelli italiani? Non è che per caso la manovra del governo Rajoy, che ha vinto le elezioni, è meglio della nostra, perché lì ci sono più tagli alle spese che aumenti delle tasse, e da noi invece più aumenti delle tasse che tagli alle spese? Ne parliamo con Eusebio Val, che è corrispondente italiano dell'Avanguardia, l'Avanguardia di Barcellona. Buongiorno, grazie Eusebio Val. Buongiorno, buongiorno. Allora, alla domanda fatta da noi un po' seccamente, qual è la sua risposta? Bene, io credo che in Spagna c'è una prospettiva politica più chiara. Abbiamo adesso un governo per 4 anni, una maggioranza solida. Questo credo che è diverso in Italia. Non si sa quanto dura il governo Monti, forse speriamo che dura fino al 2013, ma dopo non si sa che viene. E noi non abbiamo anche questo problema italiano del trasformismo, di una maggioranza che c'è adesso ma non si sa un anno dopo se ci saranno 10-20 parlamentari che cambiano. Noi abbiamo una prospettiva chiara e credo che i mercati lo sanno e premiano questa realtà. Qual è stata la reazione in realtà di un paese in cui c'è la disoccupazione così alta come la Spagna a questa manovra del governo con Nuova Italia? Sì, io credo che qui in Italia si fa un giudizio molto rapido sulla questa manovra, che non c'è stato ancora una manovra. Si è parlato di alcune cose, esatto. ma si verrà quando Rajoy veda tutti i numeri. Si deve aspettare un po', si deve avere cautela e prudenza. Credo che dobbiamo parlare anche del vero problema. Quindi aspetta, forse sarebbe più corretto dire che comunque, e hai ragione in questa la correzione, è comunque a merito anche del governo uscente, soprattutto il governo uscente Zapatero, se poi c'è stato il cambio di passo dei mercati che giudicano meglio la Spagna che l'Italia. Sì, esattamente. Il governo Zapatero ha fatto già un po' il lavoro sporco. Quando si dice non ci saranno più tasse, non è vero. Il governo Zapatero alcuni mesi fa ha reintrodotto la patrimoniale che è stata abolita 2 anni fa. Allora, io sono della Catalogna, il governo catalano 2 giorni fa ha creato una nuova tassa di soggiorno per i turisti. Allora ci saranno tasse, senza dubbio, perché la situazione finanziaria è grave e si deve combattere il deficit. Credo che dobbiamo aspettare e vedere che fa realmente il nuovo governo. Da questo punto di vista io faccio notare a tutti che oggi Corriere della Sera riprende quello che già altri giornali facevano su stipendi, confronto internazionale e peso del fisco. Noi siamo al 22esimo posto tra le nazioni avanzate come classifica del netto in busta paga. Ripeto, abbiamo un salario annuo medio in dollari, quindi dopo le tasse e i contributi, che è di 19.000 rotti euro, quindi sono 25.155 dollari. Però noi siamo i quarti, mentre siamo 22esimi per netto in busta paga medio del lavoratore salariato, siamo quarti per peso di imposte e contributi e siamo quasi al 47%. L'Italia, a batterci c'è solo Austria, Germania, Francia e Belgio, per capirci. Posso chiederti un'altra cosa? Noi abbiamo una situazione di fortissima tensione negli ultimi mesi per quello che riguarda piccola e media impresa, che teme che la recessione italiana e la restrizione del credito delle banche italiane sia addirittura più severa di quella 2008-2009. Invece il mood, l'atteggiamento psicologico della Spagna, che ha avuto appunto un'esplosione di disoccupazione molto forte nell'ultimo anno e mezzo alle nostre spalle, se dovessi darci un quadro, una sensazione con le ultime elezioni, l'atteggiamento psicologico è quello che il peggio è un po' alle spalle per quello che riguarda la Spagna, oppure un atteggiamento psicologico come quello italiano in cui ci stiamo reimmergendo nel peggio? Sì, non credo che ci sia un atteggiamento molto fiducioso, molto positivo. Credo che dobbiamo parlare un po' dell'origine di tutto questo in Spagna, la bolla edilizia che è scoppiato. Questa follia in Spagna di questa enorme bolla edilizia è all'origine del problema. Naturalmente c'è la crisi internazionale, ci sono altre cose, ma per noi questa bolla che è stata una politica sbagliata non solo del governo centrale, anche dei governi regionali, dei municipi, tutti hanno sbagliato, anche la cittadinanza, con questa illusione di credere che i prezzi dell'abitazione non possono mai cadere, dimenticare la legge fondamentale dell'offerta e la domanda. Questo è l'origine di questa altissima disoccupazione, dei problemi delle banche, delle casse di risparmio, dell'indebitamento delle famiglie. Questo è una cosa che è molto speciale della Spagna e che non si vede una soluzione per questo. Ci sono tante case vuote, non si vede come questo problema si può risolvere subito. A maggior ragione perché appunto la Lombardia esce a Barcellona, quindi la Catalogna è una delle esperienze di autonomia più forti che c'è in Spagna. Lì la cooperazione Stato-autonomie ha dato risposte convergenti e cooperative alla crisi oppure di contrapposizione e divergenza? Lo dico pensando al paese nostro in cui la Lega fischia in Parlamento e torna ad avere opposizione durissima dopo che per anni ci ha detto che il federalismo veniva nel 2019 e avevano levato l'imposta immobiliare fondamentale per le autonomie. Quindi noi viviamo una condizione nella quale sembra tutto contrapposto tra Stato e autonomie. In Spagna, di fatto, come è avvenuta la cosa? Allora, questo è molto interessante. Uno dei punti del nuovo governo è la riforma amministrativa, la riforma anche di questo Stato, che diciamo è Stato delle autonomie, della regione. 25-30 anni fa l'Spagna, che veniva da una dittatura, ha creato questo sistema delle autonomie, dei governi regionali, che si è fatto per motivi politici, adesso non c'è il denaro. Quando le cose andavano bene c'era denaro per tutto, per finanziare tutte queste burocrazie, ma adesso è necessario fare tagli molto, molto pesanti. Non è possibile, per esempio, che nella mia regione, la Catalogna, ci sono 7 canali pubblici di televisione. Questo costa tantissimo. Adesso vogliono togliere 2 di questi canali, ma è in tutta Spagna che abbiamo pensato che eravamo molto ricchi per avere tutta questa struttura, e una delle misure fondamentali del nuovo governo sarà come riorganizzare tutto questo per poter pagarlo. Bene, il problema è che in Italia in realtà la riduzione del perimetro pubblico non c'è, né per la parte patrimoniale al momento, non c'è stato l'abbattimento di 20-25 punti di PIL con meno mattone di Stato, e ce lo aspettavamo dal governo Monti, continuo a chiedermi perché, e non ci sono neanche, dopo i tagli lineari di questi ultimi anni, per il momento, finché non avremo la spending review, dei tagli discontinui, incisivi e pesanti sul perimetro pubblico centrale e periferico, a cominciare dal sistema delle migliaia delle imprese locali che gestiscono servizi pubblici, avendo bacini di riferimento economico non ottimali, essendo in perdita ed essendo utilizzati dalla politica per gli amici degli amici. In Spagna si tenta di farlo, da noi non ci siamo ancora. Io ringrazio Eusebio Val. Intanto informazioni sulla circolazione stradale. E mentre riparte naturalmente l'ipnotica versione di This is the End dei Doors, noi andiamo con qualche rapida telefonata di ascoltatore. Cominciamo con Vincenzo che chiama da Milano. Prego Vincenzo. Sì, buongiorno. Ma io avevo un pensiero, un mio contributo, che era legato a questo. Se dal mio punto di vista occorre rifar partire sicuramente i consumi, e questo può avvenire solo ed esclusivamente attraverso un taglio delle aliquote per dare più potere di acquisto ai lavoratori, ma questo deve essere finanziato da qualcosa. Secondo me questo finanziamento, io vado in controtendenza, lo so che scatenerò qualche ira di qualcuno, però deve andare attraverso un incremento sostanziale delle aliquote sui carburanti, che produrrebbero, a mio avviso, un incentivo all'efficienza energetica a 360 gradi, e un po' quello che creò tempo fa il superbollo, creando una leadership tecnologica italiana nel settore dei motori diesel di piccola cilindrata, che ci è riconosciuta ovunque. Vincenzo, quindi, noi però siamo al limite già di accise, di aumento ulteriore di accise sui carburanti che sono molto forti. Capisco che lei dice che l'esperienza italiana, questo è un fatto abbastanza notevole, malgrado questo record di aumento delle accise sui carburanti, poi in realtà abbiamo consumi molto anelastici, nel senso che un po' diminuiscono, ma diminuiscono molto meno di quanto aumenti la pressione fiscale da questo punto di vista. Io la stupirò ancora di più, io invece sono proprio per una riforma sistemica del nostro prelievo, ed è questo un altro errore di questo governo che prende dove si vede, come fa con la Ragioneria Generale di Stato, troppo in questi anni, da questi anni a questa parte, perché io sono per una riforma ordinamentale che spieghi che bisogna molto levare il piede dalla pressione fiscale sui redditi persona, lavoro e impresa, e riequilibrare con imposizione indiretta, che ha anche l'effetto di essere una devoltazione competitiva per chi esporta. Ora non c'è tempo per spiegarlo, ma è così. Errore inoltre introdurre tutte queste confuse patrimoniali, confuse aggiuntive, la botta sull'IMU, alla patrimoniale sui conti e titoli si è sommato quello sui conti bancari, si somma una iperpatrimoniale sulle case che sono all'estero, diverse da quelle italiane, si fanno le addizionali scombinate dalle aliquote dei redditi, quindi sono iperpatrimonialmente regressive, tutto questo senza che ci sia una imposizione patrimoniale che tenga conto anche delle passività accese a fianco di questi patrimoni. Allora, questa roba qua è un ulteriore errore, perché non ci dà fiato per i consumi e rende la patrimoniale qualcosa che si introduce a più livelli nell'ordinamento come un rubinetto che poi la politica azionerà negli anni a venire, come avviene per le aliquote a disposizione negli anni a venire una volta che abbiamo riaperto lo scudo. Questi sono errori perché sono privi di coerenza sistemica, non fanno riequilibrio patrimoniale, fanno confusione e altri rubinetti aperti ai politici. Inverano che, come diceva Tucidide, a governare la spinta propulsiva fondamentale viene dai mediocri, e se lasciamo il governo ai mediocri succede un po' come succede con la demagogia delle tasse di stazionamento alle barche. Abbiamo con noi Anton Francesco Albertoni, presidente Bucino, Unione Nazionale Cantiere Industria Nautica, e io gli cedo la parola, perché la demagogia di una roba che danneggia ulteriormente un settore di eccellenza italiana regalando posti barca ai croati e alla Francia è una roba che potrà applaudire solo chi è scemo, per quello che mi riguarda. Direttore, buongiorno. Buongiorno, direttore, prego. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Sì, purtroppo è proprio così, siamo in un paese in cui sempre più spesso la demagogia vince sul buon senso, e questa volta me lo lasci dire, lasciatemelo dire, vince anche sui numeri. In tutti i paesi d'Europa in cui la nautica di porto è evoluta da molti anni, sicuramente per prima la Francia, esiste un bollo cosiddetto, esiste una tassa sulla proprietà, sul bene barca. Come viene accettata su altri beni, come viene accettata sulle automobili, sulle moto e su altri beni? Viene accettata da sempre anche sulla nautica da diporto. La cosa incredibile è che questo provvedimento invece non ha varato una tassa sul possesso, ma ha varato una tassa sul soggiorno, sul transito. Quindi tutte le barche, che siano bandiera italiana, che siano bandiera straniera, quindi intestate a turisti nautici in transito nelle nostre acque per fare vacanza, pagheranno questa gabella, che altro non è, appunto per appena entrati nelle acque territoriali. Bisognerebbe aggiungere, pagheranno è sbagliato, pagherebbero secondo le intenzioni forse del legislatore, ma non pagheranno mai, perché è impossibile da riscuotere oltretutto questa tassa così com'è. È stato previsto un gettito di circa 280-290 milioni di euro. Noi abbiamo dimostrato al Ministero, al Governo, che se vogliono effettivamente recuperare questi 280 milioni devono tassare il bene e non devono tassare il soggiorno delle barche. Questo sta svuotando tutti i nostri porti turistici, c'è già una fuga di circa il 30% ad oggi di turisti stranieri che hanno i contratti dei posti barca in scadenza al 31/12/2011 e che non li vogliono rinnovare perché stanno cercando disponibilità di posti barca nelle nazioni a noi vicine. Io il calcolo del danno questo provvedimento, se portato avanti così, darà sarà enorme. Teniamo anche presente che sul 100% del noleggio in Italia solamente il 4% è italiano. Allora io la devo Presidente, la devo per forza interrompere, perché le abbiamo dato questo grido di dolore che io condivido. Questa stupidaggine si deve a qualche funzionario della ragioneria, che andrebbe pubblicato per nome e cognome per i danni che fa l'ennesima volta regalando ai nostri concorrenti questa stupidaggine. Grazie anche a Anton Francesco Albertoni, appuntamento a domani, linea ai colleghi del Giornale Radio. 9 in punto.